Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Mi auguro intanto che si faccia l'esame di coscienza lui. Non ha mostrato alcun segno di pentimento per quell'aggressione, neanche una telefonata di scuse ad Antonio Cavallaro, 64 anni, l'uomo che per poco non uccideva. Ma il tassista romano, denunciato per lesioni gravi, non potrà almeno per ora più lavorare. La licenza gli è stata infatti sospesa e potrebbe essere anche revocata in modo definitivo. E mi scaraventa a terra sul selciato. Una violenza ingiustificata che ha suscitato indignazione. L'anziano è stato malmenato solo perché aveva parcheggiato la sua vettura nello spazio riservato alle auto bianche mentre andava d'urgenza in farmacia. È un fattaccio di cronaca che io riporto tale quale come è riportato dai colleghi del TG5 e aggiorno con le notizie che ho sotto mano in questo momento. Mi colpisce particolarmente, primo perché accade nella mia città, secondo perché accade vicino a una fermata della metropolitana dalla quale entro e esco abbastanza spesso, quella di Barberini, dove appunto all'angolo di Piazza Barberini c'è una farmacia, della quale spesso ogni tanto passo, non mi servo perché vado dalla farmacia della premiata ditta Sorelle Barletta, come è noto. Terzo, perché mi ricorda una battaglia che ho spesso fatto ai microfoni di questa radio per rivendicare il diritto di persone disabili di poter usufruire di spazi per il parcheggio a loro dedicati. Più volte abbiamo trattato il tema delle strisce gialle dedicate ai disabili, abbiamo detto che una città come Roma è terra di nessuno, molto spesso un disabile, anche se ha uno stallo a lui dedicato, cioè dedicato soltanto alla sua automobile, ma sempre in ogni caso, deve fare lunghe e snervanti contrattazioni con le persone che glielo occupano, che gli dicono mi fermo soltanto un istante, soltanto un attimo, anch'io ho un parente disabile, avevo da fare, devo lavorare, ma in fondo che problema ha la persona che ha dentro, poteva aspettare un attimo e via dicendo. In questo caso è accaduto esattamente il contrario. Un padre di un ragazzo disabile, gravemente disabile, aveva bisogno di parcheggiare di fronte alla farmacia dell'angolo di Piazza Barberini per un farmaco urgente per il suo ragazzo. Il padre è sceso, ha lasciato la macchina in maniera del tutto temporanea nelle strisce dedicate al parcheggio dei taxi. Di fronte con la farmacia c'è un parcheggio di taxi. È accaduta una colluttazione, un tassista non ha tollerato questo atto di occupazione abusiva da parte dell'automobile con il disabile dentro e ha massacrato di botte questo signore. Naturalmente ci sono tutti i sindacati, hanno preso posizione, un atto talmente vigliacco e talmente sproporzionato che non serve a gettare l'onta su nessuna categoria. Naturalmente i tassisti si sono tirati fuori, anche se sono stati denunciati tutti i colleghi che erano lì parcheggiati, gran parte dei colleghi, perché sembra che gli abbiano detto no, vattene, vattene, quando il povero signore di quasi 70 anni era per terra. Se vedete le sue interviste nei telegiornali, al volto tumefatto, un femore spezzato, è stato massacrato mentre il ragazzo era in macchina, semplicemente perché aveva appoggiato la macchina in un luogo in cui non era consentito, secondo il tassista, fermarsi altro che ai tassisti. 800240024, mi sembra un buono spunto di riflessione questa mattina. Mi si spezza il femore o a metà, ho rischiato di morire qui. Il 64enne è ancora ricoverato in ospedale, è fuori pericolo ma ematomi sul volto e sul corpo e il femore fratturato. Io ho riscontrato che due suoi colleghi che hanno assistito alla scena non solo non sono intervenuti per difendere mio padre da quell'aggressione, ma successivamente hanno permesso al tassista che ha malmenato mio padre di andarsene e soprattutto loro due non gli hanno prestato soccorso. Mi rivolgo a due categorie di persone. Primo, le persone che hanno comunque un problema simile a questo signore, il ragazzo poi rimasto traumatizzato perché vedere il padre buttato per terra, massacrato di botte, aver interrotto improvvisamente la sua routine di vita, che comunque è un sistema di rassicurare una persona disabile. Il padre si è sentito dire anche insulti fortemente forti, fortemente lesivi da questo tassista. Ora il tassista, probabilmente tutti mi direte che è la pecora nera. Ma come mai le pecore nere, visto questo signore aveva già un precedente per aver preso a pugni un suo collega, sono così spesso presenti nella categoria dei tassisti? Perché abbiamo così tante notizie di cronaca di esempi di violenza, dico nella città di Roma, che hanno aperto infatti su questo un fascicolo e stanno indagando su una serie di episodi di violenza cruda a cui sono legati dei tassisti. Ma voi tassisti, categoria dei tassisti, persone che conosco bene, i cui servizi io usufruisco ogni giorno senza mediamente dormire nemmeno troppo lamentare, com'è tollerate qualcosa del genere all'interno della vostra categoria? E voi persone che avete dei problemi di disabilità, è proprio vero o mi confermate il fatto che si sia così poco tutelati nei leciti spazi cittadini di cui si ha bisogno quando occorre parcheggiare la macchina? Andrea, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, guardi, dicevo appunto chi mi ha interpellato al telefono che Roma, ho l'impressione che Roma sia una città di disabili, di paralitici, dico minchia perché poi viene nervoso, perché dovunque mi giro ci sono posti per disabili da tutte le parti, con tutto il rispetto per l'amor di Dio, per tutto il rispetto per chi realmente ha bisogno. Io sono uno di quelli, lo dico in anticipo, così magari tollererà meglio la mia reazione per quello che sta dicendo. No, ma capisce, non, alle volte io ho riscontrato in alcuni punti, per esempio vicino, vado spesso da mia madre dove non riesco mai a trovare un posto, vicino alla metropolitana, e ci sono due posti per disabili che sono sempre vuoti. Beh, che vuol dire? Sono vuoti proprio perché sono riservati ai disabili, non è che i disabili li occupano stabilmente, sono a disposizione di... Sì, ma se benedette macchine ci saranno da qualche... Cioè, le spiego il principio, visto che lei è totalmente inconsapevole e ignorante di quale sia il problema. Il posto per disabile è vuoto perché il disabile in ogni momento potrebbe avere bisogno di parcheggiare e deve averlo libero. È chiaro che il disabile non lo usa come parcheggio stabile per la sua macchina. In questo caso c'è scritto il numero della concessione è dedicato a una persona, dove lascia stabilmente la sua macchina. Quando vede dei posti gialli vuoti, sono i posti intoccabili, inviolabili. Poi è vero, senz'altro vero, ci sarà una percentuale altissima di falsi invalidi, quello che vuole, ma questo non preclude il fatto che quei posti sono sacri, intoccabili. Certo, lo capisce questo? Ma questo a me le entra nella testa, questa cosa. Lo capisco perfettamente. Le capiterà mai. Avrà una persona prima o poi in famiglia, conoscerà qualcuno che avrà questo problema. E lei ride, c'ha poco da ridere su questo. Non so ridere su questo. Si metta nelle condizioni di chi non può scendere dalla macchina, o chi ha un problema comunque, che ha bisogno di trovare posto. Almeno questo potrà avere il diritto. No, ho capito benissimo. Lo sa perché? No, non me la prendo con lei. Io capisco che non conoscendo il problema, l'atteggiamento che lo dice, perché due posti liberi non ci posso mettere la macchina io, che ne ho bisogno. No, assolutamente non dico questo. No, non è questo, non era questo. Il mio vuole essere una denuncia, se vogliamo, più o meno velata, perché ci sono un sacco di posti gialli che non spettano veramente. Ma è diverso, guardi, è diverso. Ci sono un sacco di persone che probabilmente hanno il permesso e non hanno diritto di averlo. Questo è un altro discorso, ma i posti gialli sono calcolati in base alle persone che hanno il bisogno nelle città. A Roma ce ne sono tantissimi e funzionerebbe tutto bene se fossero rispettati, nessuno si lamenterebbe. Carlo, buongiorno. Buongiorno e complimenti per quello che sta dicendo e la trasmissione. Due osservazioni. La prima, il signore che è stato pestato aveva chiesto dalle ricostruzioni che ci sono state il permesso al tassista di parcheggiare temporaneamente la macchina. Il tassista che ha pestato questo signore doveva essere arrestato per tentato omicidio, perché è ridotto in condizioni gravissime data l'età anche della 40 persona. Giorni di prognosi, sono lesioni gravissime, non c'è stata la flagranza, certo, perché è scappato via, sennò sarebbe stato arrestato. Esatto. Poi terzo, i suoi colleghi dimostrano, i colleghi del tassista, quanto sia questa società priva di valori, non difendono nemmeno un uomo colpito a sangue a terra, e mi meraviglio che ci sia qualcuno che vuole difendere quello che è successo. Le posso dire una cosa, amico? Le dico quello che percepisco io. Percepisco che comunque occorre fare un grande discorso culturale, una grande campagna culturale in questo, perché la percezione generale delle persone che non conoscono il problema è proprio questa. Ma in fondo queste persone non è meglio che se ne stiano a casa. Non passa ancora l'idea che le persone comunque hanno degli impedimenti a una libera circolazione, a una libera relazione, non abbiano il diritto di usufruire della città esattamente come gli altri. Diventa più importante la signora che deve andare a fare shopping, il signore che ha dei problemi di lavoro importantissimi, l'altro deve andare al cinema, piuttosto che il disabile, che nella sua condizione disabile è condannato comunque in generale, alla persona in generale, a doversene stare chiuso da qualche parte. Mi prende dal bauro, io mezzo intontito, non capivo cosa fosse successo ancora, e mi scaraventa a terra sul selciato, mi si spezza il femore, collo a metà, quelli sono fuggiti tutti, i tassisti sono fuggiti tutti, però... omissione di soccorso. Ma più che i traumi e le ferite riportate, quello che non dimenticherà mai sono le offese rivolte a suo figlio, un ragazzo disabile che ha assistito alla lite. Stiamo partendo dall'episodio bruttissimo accaduto a Roma, che non è un episodio limite, è la punta più estrema di un atteggiamento mellifluo, generalizzato, condiviso, in cui tutti si dicono, beh sì, poveretti, è giusto, sono disgraziati, povere famiglie, hanno tanti problemi, però quanti posti liberi ci sono i disabili, pensate quante macchine potremmo parcheggiarci di persone che stanno bene. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, io capisco il problema degli handicappati, capisco il problema del parcheggio, però io in questa situazione penso che c'è solo una cosa da dire. Questo signore tassista ha perso completamente il cervello. La notte prima non so cosa gli era successo e ha sfogato su questo signore le sue frustrazioni. Io sono a Milano, a me è successo spesso di parcheggiare dove i tassisti e nessun tassista a me è venuto a violentare, non mi ha fatto niente, dico guarda un attimo scendo, ecco non so se a Roma sono più violenti quando gli si chiedono. Quella è una situazione particolare, era davanti a una farmacia dove normalmente dovrebbe esserci un posto comunque per gli acquisti urgenti, c'era un ragazzo in macchina quindi non era una sosta prolungata, è che generalmente visto anche l'atteggiamento dei colleghi sono stati denunciati che piuttosto che intervenire e aiutare il signore per terra hanno pensato di fosse stato meglio dire al collega datti, perché qui tira una bruttare. Melog. Cronache meridiane. Quando vede mio figlio che ha visto la scena, mi dice pure, ha il figlio pure mongoloide, che è la cosa più brutta, mi auguro che si faccia l'esame di coscienza lui. Ha anche un precedente. Un anno fa aveva sferrato un pugno a un collega perché gli avrebbe rubato una corsa. È stato denunciato per lesioni. 800 24 0024, partendo dal brutto episodio di Roma, allarghiamo la nostra riflessione. Faccio una premessa. È chiaro che picchiare una persona semplicemente perché occupa il parcheggio di un taxi è un gesto deprecabile a priori, al di là del fatto che abbia o non abbia un ragazzo disabile a bordo. Non voglio giustificare comunque gli atti di violenza in assenza di disabile. In questo caso c'è qualcosa di più schifoso tutto intorno. C'è la muta solidarietà dei colleghi, sono stati denunciati, e c'è questo senso che si percepisce che in realtà il posto auto è qualcosa di sacro, il posto riservato. Avete mai visto parcheggiare una macchina abusivamente in un'area in cui c'è scritto corpo diplomatico? Nessuno ha il coraggio, se appena ci appoggi un attimo la macchina chiamano subito e te la rimuovono, quindi nessuno lo mette al posto degli spazi diplomatici, nessuno protesta per dire come Roma è piena di ambasciate, vedo centinaia di posti liberi, c'è scritto corpo diplomatico, c'è qualche ambasciata in qualche appartamento di qualche stato sconosciuto probabilmente, però sui tanti posti di disabili qualcuno da dire, se ne vedono tanti, poi sono tutti vuoti, dove sono queste macchine disabili, mi diceva un ascoltatore. Naturalmente i tassisti stanno scrivendo, difendono la categoria, fanno bene, è giusto, difendono la categoria. Qualcuno dice non prendertela con i tassisti, qualcun altro mi scrive, dica ai miei colleghi che chi ha il contrassegno per disabili può temporaneamente parcheggiare sui posti taxi. Non credo questo sia esatto, può, se ha il disabile a bordo, transitare sulle corsie preferenziali dei tassisti, questo può farlo, ma non credo che possa parcheggiare. Ma mi sembra una cosa, parcheggiare con un disabile che rimane a bordo è chiaro che è un parcheggio che può durare soltanto alcuni istanti. Giuliano, buongiorno. Buongiorno dottore, grazie per l'ospitalità. In merito all'episodio di Roma, io trovo che esso sia deprecabile non tanto per l'uso della violenza in se stessa, ma anche perché nei confronti di una persona più debole e più anziana, questo è veramente schifoso. E in ogni caso rivela anche proprio lo stress sociale cui si è sottoposti tutti i giorni. Qui bisognerà aspettare anche l'atteggiamento delle istituzioni, del comune, della legge, perché se è vero che il tassista ha sbagliato e deve pagare, è anche vero che questo va proprio corretto in generale. Roma le dico un elemento in più che forse è sfuggito: è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza che ci sono, c'è una banca di fronte e quindi che nessuno ha fatto il nome di questa persona, nessuno, c'è un'omertà generale rispetto a questo fatto, capito? Perché se l'è data nessuno ha detto nulla. È riuscito il signore o qualcuno per lui a prendere due numeri della targa, poi le telecamere di sorveglianza l'hanno identificato. Questo per dire che, secondo me, e su questo voglio andare a scavare, esiste una sorta di complicità muta, magari non totale, tutti prendono distanza sulla violenza, ma sul fatto che in fondo queste persone sarebbe bene che non andassero a occupare gli spazi vitali della gente che lavora e che produce. E su questo oggi insisto. Norina, buongiorno. Buongiorno. Il radioascoltatore precedente praticamente ha voluto dire le cose che volevo dire io, cioè di non fare una questione magari solo per i disabili, ma in generale per la violenza gratuita che circola nelle nostre sì, città, ho capito, nei perché, nostri atteggiamenti. Scusi, signor, sì, sono d'accordo, ho fatto anch'io la premessa lecita e doverosa, perché bisogna sempre generalizzare quando qui c'è un atto specifico, un atto violento, doppiamente violento, cioè la non considerazione di una categoria debole. Guardi che è veramente un problema di cultura questo. Questo signore probabilmente avrebbe preso a cazzotti chiunque, non voglio mettere in discussione questo momento, era un momentaccio, era depresso, fatti suoi. Ci penseranno i tribunali a decidere le aggravanti o le attenuanti, ma il fatto che dei colleghi hanno visto una scena così schifosa di un signore di una certa età massacrato e buttato per terra con un figlio allibito e appartenente a una categoria che andrebbe protetta dentro la macchina, e in fondo per loro è stato più importante difendere il diritto che le strisce dei taxi o le strisce di una categoria che ha diritto di occupare le strisce non siano occupate in maniera illecita. E perché lo stesso accanimento, la stessa rabbia, lo stesso spirito di difesa non scatta quando qualcuno impunemente occupa gli spazi dei disabili? Questa è la mia domanda. Lorenzo. Sì, buongiorno Nicoletti, salve. Dunque, io l'intervento che volevo fare, ora la piega che ha preso la trasmissione sull'argomento disabili, in realtà... No, lei intervenga su quello che ritiene più opportuno, non si preoccupi. Dunque, io volevo intervenire relativamente, la parte dell'episodio che è accaduto e di cui stiamo commentando è di una gravità che secondo me non merita nemmeno di essere discussa, non ci possono essere obiezioni a cose del genere, però io volevo portare un esempio... proprio per inquadrare la categoria tassisti, perché non più tardi di una settimana fa stavo guardando una trasmissione, mi pare fosse le Iene su Italia 1, e cioè, le solite macchiette fanno gli scherzi alle varie persone che incontrano per la strada, fra queste persone c'era appunto un tassista e mentre le persone normali hanno delle reazioni, il tassista ha un disegno che mi pare sia stato fatto sopra il cofano della macchina e ha tirato fuori il coltello. Ora, va bene tutto, per carità, era un disegno fatto con uno spray, chiaramente non sapeva il tassista che era lavabile, che era uno scherzo, però questo ci dà secondo me la misura del tipo di reazione che sempre più questa particolare categoria di lavoratori ha come aggressività, perché voglio dire, a una cosa del genere una persona normale ti può spintonare, può arrivare anche a darti uno schiaffone, perché dipende dalla persona che troviamo davanti. Però un tassista invece ha tirato fuori un coltello. Guardi, io sono sommerso attualmente ad SMS tassisti che non criminalizzare la categoria. Lungi da me criminalizzarla, ma sarebbero loro i primi a doversi fare una sorta di esame di coscienza e capire da chi anche è composta, oltre i bravi tassisti che un giorno fanno il loro lavoro, la loro categoria. Anche perché è un servizio pubblico, sono persone che hanno una grossa responsabilità. Si prendono la loro macchina delle persone strane, molte volte persone che non hanno capacità di reagire ad atti di spocchia, di violenza, di fastidio. I tassisti dovrebbero capire, allora dovrebbe essere una categoria che dovrebbe avere una cautela in più nel selezionare le persone che hanno diritto di fare il loro lavoro, sennò dopo non si sentano criminalizzati. Giampiero. Sì, sono Giampiero di Milano. Secondo il punto di vista quel tassista ha fatto anche un po' il bullo del naso, anche perché era bello grande grosso, si è trovato davanti uno più debole di lui. e probabilmente anche tutti gli altri colleghi non hanno detto niente, sono intervenuti proprio perché a questo punto era perché hanno paura, come hanno paura quando uno arriva alla stazione Terni, ci sono gli abusivi che portano via i clienti, sì, però, e nessuno ha il coraggio di dire nulla perché sono grandi, grossi, capito, e con le facce la taglia gola, certo. Se quello che andava a parcheggiare sulle strisce fosse stato grande e grosso, quello se ne stava zitto, buonanotte, però è una persona che non ancora più ma se ti è una più debole di lui. Cioè, quindi fare il gradasso con la persona più debole di te sono facce tutti. Ma guarda, i bulli e gradassi se la prendono sempre con qualcuno più debole, mai visto un gradasso se la prende con uno più forte di lui. Bruno, buongiorno. Eccomi, volevo riportare la mia esperienza brevemente. Io sono un insegnante di scuola primaria, ho una mia collega che ha dei gravi problemi di deambulazione, lavora nella stessa scuola in cui lavoro io. Sicché nel parcheggio vicino alla scuola c'è un posto molto vicino alla scuola che distrà 10 metri per permettere a questa donna di andare al lavoro. Il posto è perennemente occupato, soprattutto nel momento in cui si arriva a scuola. Cioè sono strisce gialle, un parcheggio riservato, esatto, per disabili. Esatto. Siccome questa cosa succede sempre, questa donna poverina lamenta le solite cose, solo un minuto, un attimo, il tempo di lasciare il bambino, ma voglio dire, lei deve andare a scuola e lavorare e cercare di arrivare anche in orario. Una volta mi sono permesso di far presente a un genitore che non si tratta di un minuto, perché comunque è una situazione che si ripete quotidianamente. Lei non ha idea, signor Nicoletti, non lo so bene. Di quanto mi hanno ricoperto gli insulti, di cosa non mi abbiano detto. Ma lo so perfettamente, è una realtà che conosco ahimè ogni giorno. Mi fa un nervosismo tremendo. Lei, ecco, capisco che è un fatto culturale, perché nel momento in cui poi tu ti rendi conto che se i genitori sono questi, i figli verranno... Senti, posso fare una domanda tipo tecnica? Questo parcheggio, la scuola ha chiesto una possa di riservarlo al suo lavoratore per l'orario di lavoro? Perché molte volte lei potrebbe essere, questo parcheggio non si tocca dalle 8 alle 15, una cosa del genere. Tecnicamente non glielo so dire, tecnicamente, però... Dovrebbe preoccuparsi la scuola di fare domanda, visto che ha un dipendente disabile, che quel parcheggio sia riservato al suo dipendente nell'orario in cui deve parcheggiare la macchina. Questo darebbe una possibilità in più di poi di chiamare ogni volta i vigili e far rimuovere questa macchina. Dovete chiamare i vigili e far rimuovere la macchina. Ma guardi, i vigili sono venuti molto spesso, ma forse il dirigente non è stato abbastanza fermo. Deve essere fermo, devi chiamarli tassativamente. Per colpirne uno. Quando poi gli arriva la multa e gli rimuovo la macchina, ci penso le volte. Finché hanno l'impunità, per loro è un diritto acquisito. Roberto. Ah, buongiorno Nicoletti, volevo segnalare che qualche anno fa percorrevo via Dardanelli e ho rallentato perché cercavo un numero. Dietro mi sento suonare, era un tassista, gli faccio cenno con la mano, un momento, no, un attimo. Questo ferma la macchina, scende, la parola più gentile che mi ha detto non si può ripetere, e mi ha detto testualmente: ringrazio il cielo quei passeggeri a bordo, se no ti avrei ammazzato. Sì. Testuale. Capita spesso, no, di recare, io ne prendo tanti taxi, capita ogni tanto, ci sono dei tassisti, no, che uno dice che dovrebbe fare un altro mestiere. E quanti ne ho trovati? Dico, infatti dovrebbe essere le categorie, prima di lamentarsi dei servizi aggressivi e concorrenziali, che in fondo offrono un servizio però impeccabile da questo punto di vista, perché sfido chiunque a trovare un tassista di Uber, visto che il nome è innominabile, che ti metta le mani addosso. Ecco, prima di dire la concorrenza sleale, guardatevi un attimo a casa vostra e comportatevi in maniera più decente e più civile. A domani.